Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Quando parliamo di prestiti e finanziamenti nel nostro programma, come sapete bene, ci occupiamo quasi sempre di mutui, prestiti personali, di credito al consumo, di finanziamenti per comprare l'auto piuttosto che per rinnovare l'arredamento. Parliamo molto spesso della carta di credito. Noi abbiamo seguito di recente le nuove tendenze di questo settore alla luce della crisi finanziaria in corso, che sta portando le banche ad essere sempre più severe nella concessione di credito. È un problema che sta animando non poco il dibattito in corso, perché la stretta del settore creditizio si sta abbattendo, secondo le denunce che continuano ad arrivare da praticamente tutte le associazioni di categoria, soprattutto sull'impresa medio-piccola, fra i piccoli imprenditori, fra gli artigiani, che ci raccontano molto di frequente al nostro indirizzo di posta elettronica, ma cercano di raggiungere quasi tutte le caselle di posta elettronica di tutte le trasmissioni di Radio 24, subiscono delle revoche unilaterali degli affidamenti già in corso, si sentono negare ulteriori disponibilità di credito per continuare a mandare avanti le aziende, per non parlare poi della necessità di avere il sostegno finanziario magari per avviare nuovi business, affrontando la crisi, magari aggredendola, esplorando nuove opportunità di crescita e nuovi mercati. Un altro problema poi è rappresentato dall'aumento degli oneri sui prestiti per chi comunque riesce a mantenere il canale di accesso al credito, spread più alti ad esempio e richiesta di maggiori garanzie. Questo è un tema molto importante sul quale oggi vorremmo sentire anche le vostre testimonianze, che commenteremo con chi si confronta intanto ogni giorno con problematiche di questo tipo. E quindi ringrazio e saluto Claudio Giovine, capo dipartimento economico della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Giovine, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Sentiremo poi qual è anche la versione rispetto a questa situazione del mondo bancario, che continua a dire le banche stanno continuando a fare il loro dovere, stanno continuando a derogare credito alle imprese, la realtà ci sembra invece del tutto diversa. Sicuramente il panorama bancario è molto differenziato nell'atteggiamento in questo momento, così come i tessuti economici che stanno sostenendo sono molto diversi sul territorio, e anche il profilo ovviamente anche degli imprenditori che vanno sostenuti in questo momento. Per cui più avanti ci collegheremo con Salva Danaio anche con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ed avremo la testimonianza di Gianfranco Torriero, responsabile del centro studi appunto dell'ABI. Volevo anche segnalarvi l'inchiesta che è stata pubblicata questa mattina dalle Sole 24 Ore, dall'inserto Lombardia, per cui solamente i lettori del nord potranno leggerla. Un'inchiesta molto interessante che tocca proprio questo problema della stretta del credito e delle ripercussioni fra le piccole aziende, artigiani, credito a caro prezzo. Nei primi mesi del 2009 c'è stata una crescita esponenziale del ricorso ai consorsi fidi, quindi come alternativa alla richiesta al mondo bancario. I tassi di interesse pagati agli istituti sono allineati alla media italiana, nonostante un livello di sofferenze inferiore che in Lombardia si registra, e insomma anche da questi dati partiremo per verificare poi se quello che si verifica in Lombardia, che si registra in Lombardia, è replicato anche sul resto del territorio nazionale. Abbiamo anche delle testimonianze di alcuni imprenditori che ci raccontano la propria difficoltà, e ovviamente, come ribadisco, potete chiamarci e raccontarci anche la vostra situazione all'800 24 00 24, oppure scriverci al 349 238 6666. Peraltro, parlando proprio di supporto del credito per eventualmente esplorare altri mercati, nuove opportunità di business in questo momento, volevo subito leggervi il messaggio di un ascoltatore, Luigi, che dice: stretta del credito, come può fare un'azienda che è proprietaria di un brevetto nuovo ed innovativo con facoltà di estensione internazionale nel campo della super pulizia delle superfici a trovare una linea di credito per sviluppare una simile tecnologia? Luigi, cercheremo, se potremo stamattina, anche di darle una risposta. Intanto, prima della scheda, diamo un'occhiata anche alla borsa, anche se un po', insomma, le cose generali ve le ho già raccontate nel giornale radio. stamattina dopo le due giornate di lunedì e martedì da dimenticare per i mercati. Oggi le borse europee sono partite all'insegna del recupero, un recupero che era già stato avviato questa mattina dai mercati asiatici con la particolare brillante prestazione vissuta dall'indice di Shanghai più 6% sulla scia delle misure di sostegno del governo cinese che sono state varate, e poi il Nikkei a Tokyo è chiuso con un rialzo dello 0,8%, l'Hanseng di Hong Kong più 2,47%, abbiamo oltre 2 punti di guadagno per Parigi, Francoforte e Londra, anzi Francoforte quasi più 3%, Milano un po' meno più 1,66% sull'S&P MIB, perché qua oggi sta pesando la situazione su Impregilo, il titolo sta perdendo l'8,75%, ieri a borsa chiusa è arrivata la notizia che il Tribunale di Firenze ha condannato in primo grado 26 persone chiedendo risarcimenti alla società per oltre 150 milioni di euro nel processo per presunti danni ambientali causati dai cantieri per la realizzazione del tratto dell'alta velocità Firenze-Bologna. A confortare invece il listino oggi abbiamo Fiat più 8,49%, c'è un giudizio positivo di Merrill Lynch. Il gruppo ha fatto sapere di non aver bisogno di fare ricorso al mercato, di un aumento di capitale per sostenersi finanziariamente in questo momento, e il mercato automobilistico europeo oggi guarda anche alle prospettive che vengono indicate in queste ore dal Salone dell'Auto di Ginevra. Io direi però di lasciare la borsa subito, andare subito al tema di questa mattina perché ci pare piuttosto interessante, a giudicare anche dalle telefonate che in molti di voi stanno prenotando all'800240024. Parliamo della stretta del credito, come si sta riflettendo tra i piccoli imprenditori. La crisi economica si fa sempre più profonda. Il prodotto interno lordo delle principali economie mondiali ha subito cali record. La produzione industriale arranca e i mercati non riescono a riprendere tono, travolti dall'ondata delle brutte notizie. Il sistema bancario, colpito dalla smaterializzazione della finanza creativa, ora chiede aiuto, e così si moltiplicano gli interventi di sostegno su entrambe le sponde dell'Atlantico, in Europa come negli Stati Uniti. Nel nostro paese il governo ha lanciato i cosiddetti Tremonti Bond allo scopo di ridare fiato al mondo del credito strozzato dalla mancanza di liquidità. Del resto, l'importanza di garantire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese è considerata fondamentale, legata com'è a doppio filo con la futura ripresa economica. In Italia, infatti, le piccole realtà produttive sono ancora la maggioranza e rischiano ora il fallimento, penalizzate su due fronti. Da una parte la crisi dei consumi, dall'altra la crescente difficoltà di ottenere finanziamenti. L'allarme è già stato lanciato dalle associazioni di categoria e, a conforto della tesi sostenuta dalle imprese, ci sono anche i dati della Banca d'Italia, che nel suo bollettino economico di gennaio ha constatato una riduzione dei finanziamenti, riflesso sia della debolezza della domanda di credito da parte delle imprese stesse che dell'inasprimento dei criteri adottati per l'erogazione dei prestiti. Situazione che conoscono perfettamente molti piccoli imprenditori che ormai da qualche mese stanno subendo una chiusura quasi totale dei rubinetti bancari, con revoche unilaterali degli affidamenti, aumento degli oneri sui prestiti comunque ottenuti, minore flessibilità dei piani di rimborso. Da parte loro, le banche osservano un pericoloso aumento delle sofferenze sui finanziamenti e rivedono le proprie politiche di credito. E siccome io vorrei che oggi la nostra trasmissione, più di tutte quelle che facciamo ogni giorno, che sono già assolutamente ricche di tutte le vostre testimonianze, delle vostre richieste, in genere domande per così problematiche molto pratiche, oggi più che mai ci interessa proprio la vostra testimonianza diretta su come state vivendo sulla vostra pelle questa situazione, se siete degli artigiani o comunque dei piccoli imprenditori. Prima di sentire la nostra prima testimonianza, che è quella che assegniamo a Roberto da Padova, però devo salutare per cordialità Claudio Giovine, stamattina mi incespico spesso e volentieri, sarà la pioggia. Claudio Giovine, capo dipartimento economico della CNA, benvenuto a Salva Danaio. Grazie a voi, buongiorno. Dottor Giovine, le faccio subito sentire allora la storia di Roberto da Padova. Roberto, benvenuto a Salva Danaio. Buona giornata e grazie a voi. Ci dica. Allora, molto velocemente, avete già detto tutto. Qual è la realtà sul campo? Qual è la realtà in trincea? è quella che le aziende bisogna mandarle avanti tutti i giorni, è quella che quando dobbiamo acquistare dei tessuti piuttosto che di altre cose abbiamo bisogno di un aiuto per prendere la materia prima, è quella di fare gli stipendi tutti i mesi. Noi usiamo l'arma della fattura, si porta in banca, viene anticipata, ti giri, quando incassi i tuoi soldi poi alla fine paghi chi devi pagare e vai avanti, ma se dal momento in cui tu hai bisogno di finanziarti l'operazione, che può essere, possono essere le consegne in questo caso della primavera, piuttosto che altre cose, e trovi le porte chiuse per mille motivi, o perché sei uscito magari da 500 euro dal tuo conto corrente o affidamento, ti chiudono le porte, che cosa devi fare? Roberto, questo è tutto quello che le sta succedendo adesso? Sì, non solo a me, anche a altri signori, siamo centinaia di imprenditori in questa situazione e dobbiamo venire a meno anche dagli impegni che abbiamo con i nostri clienti, perché se noi non riusciamo a finanziare l'operazione che in questo momento qua dobbiamo terminare, vedi le consegne della primavera, dove dobbiamo andare? Ecco che scoppia la rabbia quando a livello televisivo piuttosto che radiofonico sentiamo i nostri governanti che sventolano ste bandiere dicendo stiamo aiutando le piccole aziende, dobbiamo aiutare chi crea posti di lavoro. Perdonatemi la battuta un po' veneta, sono balle perché noi siamo in trincea da soli a risolvere i problemi tutti i quotidiani giorni. Roberto, lei come li sta affrontando in questo momento? Quanti no le ha detto la sua banca? Ma potrei dirne tre, perché tre sono le banche che collaborano. Come li sto affrontando? Sto cercando di farmi aiutare dai fornitori piuttosto che dalle persone che da anni ci conoscono, chiedendo aiuto anche in certi casi ai clienti stessi, chiedendo se ci possono dare una mano ad acquistare la materia prima. È difficile, però cerchiamo di girarci a destra e a manca, non vi nascondo che molti colleghi, molte aziende sono in prossima chiusura, proprio perché non hanno l'ossigeno, questa infatti è la verità. Tra l'altro, Roberto, io la ringrazio molto, naturalmente le faccio il più caloroso in bocca al lupo per poter affrontare questo momento difficilissimo nel miglior modo possibile. Mi rendo conto che è una frase di circostanza, ma gliela dico davvero con tutto il cuore a lei e a tutti i colleghi di cui ci ha parlato, che stanno affrontando in questo momento un momento per la piccola e media impresa italiana davvero duro, davvero drammatico per certi versi, perché se qualcuno paventa la chiusura e qualcuno ha già chiuso i battenti della propria attività, questo ovviamente è l'aspetto più concreto della stretta del credito che qualcuno continua a negare. In realtà quello che accade è davvero completamente il contrario. Claudio Giovine, quella di Roberto, la storia di un piccolo imprenditore. Voi avete di più l'osservatorio degli artigiani, sono comunque dei piccoli imprenditori anche loro. Quante storie del genere sente ogni giorno? Purtroppo ne sentiamo tante e ormai da tanto tempo. Mi consente innanzitutto di esprimere al signor Roberto la nostra comprensione, solidarietà e condivisione anche dell'analisi del quadro che lui ha tanto efficacemente rappresentato. C'è un problema che nasce all'interno dell'attività quotidiana delle imprese, dovuto al fatto che i crediti commerciali si vanno incagliando, rallentando, i tempi di pagamento e di incasso si sono dilatati e a fronte di questa situazione che è figlia del rallentamento dell'economia, le banche in questo momento non sono al fianco delle imprese. Questo è un dato, come dire, certo. Incontrovertibile. Incontrovertibile, sì. Ma purtroppo è un dato che peraltro si innesta già da un rallentamento dell'erogazione del credito alle imprese che partiva all'inizio della crisi, già parliamo dal mese di settembre, c'è sensibile un rallentamento in particolare nei confronti delle piccole e microimprese e delle imprese artigiane, che sono quelle che poi all'interno delle filiere soffrono maggiormente l'impossibilità di ottenere credito bancario e la difficoltà a far fronte agli impegni. E da qui effettivamente il timore, il rischio che veniva prospettato, che è quello di una caduta sistemica del sistema delle imprese italiane, secondo noi è l'elemento più drammatico e pericoloso a cui bisogna far fronte, e rispetto al quale credo che anche da parte delle banche serva un'assunzione di responsabilità importante. Infatti, anche perché la cosa assurda di tutta questa situazione è che l'origine della crisi è del tutto bancaria e finanziaria, e non avendo neanche il coraggio di assumersi completamente la propria responsabilità, che è comunque denunciata dai conti e dalla situazione precaria dei bilanci che le banche stanno avendo in questo momento, al contempo non ne riescono nemmeno più a fare il dovere, quindi fare il business tradizionale, erogare credito alle famiglie e alle imprese, come dicevamo. Adesso c'è una grande tendenza a fare dei proclami di questo tipo. Io lo testimonio direttamente perché l'ho visto al Forex di Milano davanti alla platea degli operatori finanziari. C'era il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, il numero uno della più grande banca italiana, ha detto: le banche devono completamente ripensarsi, tornare a derogare prodotti semplici, a fare banca tradizionale. Però questo passaggio in questo momento è assolutamente complicato. In primo luogo c'è da sistemare i bilanci, e per fare questo si revocano unilateralmente i crediti alle imprese e alle famiglie, come sta accadendo in questo momento, come Roberto da Padova ci denunciava. Tra l'altro, dottor Giovine, vorrei commentare con lei anche il dato della Lombardia, riportato dal Sole 24 Ore di oggi, che riferisce dell'ultimo osservatorio sul credito alle imprese artigiane. Nel mese di gennaio scorso i finanziamenti revocati da parte delle banche agli artigiani della Lombardia risultavano in aumento rispetto all'anno prima del 542%, neanche una percentuale a due cifre, a tre cifre, clamorosa. Sì, è tanto clamorosa quanto comprensibile, a luce del fatto che fortunatamente le revoche erano una procedura poco diffusa, specialmente in una regione come quindi si parte, diciamo, da un dato assoluto basso, andiamo da un dato basso che viene incrementato improvvisamente in maniera esplosiva. Questo peraltro si concentra nel mese di gennaio, che è il mese in cui vengono rivisti gli affidamenti annuali. Non ci dimentichiamo però che già dal mese di ottobre i principali istituti davano istruzioni ai propri uffici di procedere a una revisione straordinaria di tutte le posizioni critiche, identificando le posizioni critiche proprio nelle imprese, quelle più piccole e che a loro modo di vedere erano quelle che sarebbero state più esposte alla crisi che si andava prospettando già, ripeto, alla fine dell'anno scorso. Sentirei ancora altri ascoltatori per poi continuare la nostra conversazione. Tra l'altro, sempre ci riferiamo ancora alla Lombardia, perché questa è l'inchiesta che, di cui dispongo questa mattina, ma poi con i giovani ci faremo raccontare se il fenomeno si sta registrando in tutta Italia nella stessa misura, con gli stessi parametri. C'è anche un altro dato interessante: a fronte di questo aumento dei finanziamenti revocati in maniera esponenziale, più 542% da gennaio dello scorso anno al gennaio appunto di quest'anno del 2009, c'è anche da segnalare che la quota percentuale di insolvenze sui finanziamenti da parte dei piccoli imprenditori della Lombardia è bassissima in regione, appena al 3,46%. A fronte di questo, le banche comunque chiudono i rubinetti, nonostante abbiano tutte le garanzie da parte del mondo imprenditoriale. Sentiamo Marco da Pavia. Marco, buongiorno a tutti. Si era distratto. Sì, sono distratto. No, io volevo evidenziare un punto, che è quello in merito alla fiscalità, nel senso che in questo periodo in cui la crisi si fa sentire e la stretta creditizia la segue, abbiamo le piccole e medie imprese, anche le piccole imprese artigiane come la mia ad esempio, ha un problema anche solo a pagare l'IVA sulle fatture. Certo. Che ormai vengono è tutto, come dire, un cane che si morde la coda. Certo. Un domino, Marco, inevitabile, certo. A questo punto però forse lo Stato dovrebbe aggiornarsi in merito a questo periodo difficile, perché non sono solo le banche a creare problemi, ma anche proprio le scadenze che devono secondo me essere in qualche modo riviste, perché i clienti chiedono dilazioni sempre più lunghe di pagamenti e lo Stato invece vuole i soldi che non abbiamo ancora, capisci? Cioè, Marco, pertanto... guardi, capisco, sì, è stato chiarissimo. Quindi diciamo, a fronte di, tra l'altro, a proposito di pubblica amministrazione, vi anticipo già la testimonianza che sentiremo nella seconda parte di Salva Danaio, di un imprenditore di Catania che abbiamo contattato poco fa e che ci aveva scritto una lunga, bellissima, articolata lettera di denuncia di quello che gli stava accadendo. Il tema è anche proprio quello, a volte la pubblica amministrazione, che non solo da una parte vuole che tutti siamo in regola con il pagamento delle tasse, ci mancherebbe altro, dall'altra parte però non fa il suo. Magari si vince un appalto con la pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione, quando poi deve pagarti per il lavoro che hai fatto, sparisce. Giovine, c'è un tavolo al governo aperto su questi problemi? Come Confederazione dell'Artigianato, con chi state discutendo? A che punto siete della discussione? Se c'è qualche presa di coscienza da parte pubblica di questo tema? Sì, guardi, la presa di coscienza, bisogna dire, è vero, c'è, perché i problemi sono stati posti. Infatti, ci sono appunto i Tremonti Bond per questo. Esatto, ma anche l'intervento che è stato già varato in materia di IVA, che consente il versamento dell'IVA alla riscossione delle fatture, appartengono a tutta una serie di misure che il governo ha varato, a nostro avviso, in maniera piuttosto frammentaria, intervenendo di volta in volta con provvedimenti i cui titoli sono sicuramente evocativi di interventi importanti, ma i cui effetti al momento sono ancora estremamente contenuti. Penso solo a due questioni. Il tema delle garanzie. È evidente che in questa fase, ce lo dicono anche i dati dei nostri osservatori, aumenta da parte delle banche la richiesta di garanzie reali alle imprese. Ma in questo, come in questo momento, dove le prendono gli imprenditori? Le imprese hanno difficoltà e quindi diventa fondamentale il ruolo di supporto che il sistema dei Confidi può giocare a fianco delle imprese stesse. Infatti, erogano una garanzia, scusi, che consente all'impresa di avere credito che altrimenti avrebbe difficoltà a ottenerlo, ma anche a ottenerlo a condizioni migliori. No, ma infatti la volevo interrompere solo per dire che avrei voluto approfondire poi nella seconda parte anche questo tema. Gli artigiani riscoprono i Confidi, cosa sono questi organismi di garanzia, come è possibile accedere a loro, perché poi nelle testimonianze che invece il collega del Sole 24 Ore Matteo Prioschi ha riportato questa mattina sulle pagine appunto del dorso Lombardia del Sole, in realtà spiega, secondo appunto queste testimonianze, che alla fine anche il ricorso ai Confidi è comunque un ricorso ad un intermediario che deve in ogni caso poi agire sul mondo bancario, quindi bisogna capire anche effettivamente quanto questo canale può essere concreto in una fase di difficoltà come questa. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Oggi siamo ritornati sulla stretta del credito e su come questa si sta ripercuotendo sull'attività della piccola e della media impresa, sull'attività degli artigiani. Abbiamo preso a spunto anche questa mattina, per una circostanza fortuita, l'inchiesta delle Sole 24 Ore sul dorso della Lombardia, quindi purtroppo non possono vederla tutti i lettori in tutta Italia, ma la sto sintetizzando io. Gli artigiani pagano il credito a caro prezzo in questo momento. Il dato più significativo di questa inchiesta, che è stata condotta dal collega delle Sole 24 Ore Matteo Prioschi, è che in un anno le revoche unilaterali di finanziamenti da parte del sistema bancario agli artigiani della Lombardia sono aumentate del 542%. Ringrazio e saluto di essere con noi Gianfranco Torriero, responsabile dell'Ufficio Studi dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Torriero, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. Ci ritroviamo ogni tanto, ovviamente sempre per affrontare questioni problematiche. Questa è molto importante, le sintetizzo perché so che lei non ha potuto ascoltarci nella prima parte. Le sintetizzo dunque la prima parte di Salva Danaio, che è stata molto concentrata su alcune testimonianze vive e dirette di alcuni imprenditori. Ci ha telefonato Roberto da Padova e ci ha raccontato quello che gli sta accadendo, rapporti che intercorrono con tre banche a cui lui hanno completamente chiuso i rubinetti in questo momento, e questo ovviamente si riflette anche sull'attività che sta conducendo. Da quello che ho capito, nel settore tessile lui è in ritardo ovviamente con le consegne, in grande difficoltà anche con i suoi clienti. Tra l'altro, da quello che ho capito, fino a questo momento Roberto aveva potuto anche non esasperare in maniera eccessiva il ricorso al credito, quindi a mandare avanti la sua attività facendo leva appunto sul finanziamento bancario, sul canale del credito, e in ogni caso è a rischio chiusura, così come molti suoi colleghi di cui lui ci ha portato la testimonianza, e di molti altri che tra l'altro ci stanno scrivendo confermando quello che l'ascoltatore di Padova ci diceva. Altri ci scrivono dall'Emilia, Romagna, sottoscrivo in pieno Roberto l'imprenditore, io scrivo da Como, anche in Emilia si chiude, e potrei leggergliene tante, dottor Torriero. Il tema è: perché il sistema bancario dice invece che sta continuando a fare il suo dovere con l'impresa italiana, e solo con la grande impresa italiana che sta facendo il suo dovere, ma ha chiuso davvero i rubinetti alle piccole? Ma allora, come al solito, abbiamo sempre una differenziazione tra quelle che sono le evidenze statistiche che riguardano la generalità delle informazioni, che quindi vengono monitorate mese per mese con la stessa metodologia e con le stesse definizioni, dalle indicazioni che noi abbiamo. Ieri mattina Banca d'Italia ha confermato anche con il dato a gennaio, quindi nel corso degli ultimi tre mesi, quindi novembre, dicembre e gennaio, abbiamo un tasso di variazione dei finanziamenti erogati al mondo delle imprese che si attesta intorno al 6,5%, sono tre mesi consecutivi, che quindi la variazione annua dicembre su dicembre, novembre su novembre, gennaio 2009 su gennaio 2008 determina un incremento dei finanziamenti erogati al mondo delle imprese. Mediamente gli incrementi quanti erano in passato? Ma in tempi migliori, diciamo, economici, dottor Toriero, in media i tassi di crescita quali erano, per avere così un parametro di confronto? In una situazione in cui abbondanza di liquidità, tassi di interesse particolarmente bassi, abbiamo avuto anche tassi di crescita superiori al 10%, 12%. Diciamo che il 6,5% comunque in una fase in cui due giorni fa l'Istat ci ha detto che la domanda di beni investimento è diminuita del 3% su base annua e il dato dell'ultimo trimestre è superiore, la riduzione è superiore al 4%, il PIL è meno 1%, se io prendo uno qualsiasi degli indicatori di produzione industriale, in particolare immagino quello dei mezzi di trasporto che ha avuto un crollo rilevantissimo nel corso dell'ultimo periodo, o il dato del fatturato, abbiamo un'indicazione che in realtà in questo momento la domanda aggregata nel nostro paese è veramente latente e questo si riflette anche per quanto riguarda la domanda di investimento, tant'è che un elemento importante per quanto riguarda i finanziamenti sia delle indagini lato imprese sia delle indagini effettuate lato banche sta emergendo un elemento cruciale per quanto riguarda la dinamica dei finanziamenti: è totalmente carente la domanda di finanziamenti bancari per effettuare nuovi investimenti, proprio perché dai dati aggregati sappiamo che in questo momento nuovi investimenti non vengono effettuati, mentre la domanda che è presente lato delle imprese è concentrata solamente sulla ristrutturazione del debito. Significa io ho già un debito nei confronti, contratto nei confronti della banca, e in questo momento sto chiedendo di allungare i pagamenti e di rivedere le condizioni e tutte le cose. Poi magari affrontiamo anche il tema della nuova impresa che non presenta la domanda di finanziamento, perché noi abbiamo anche domande di questo tipo da parte dei nostri ascoltatori. Però dottor Toriero, lei giustamente diceva queste sono le nostre evidenze statistiche, però so benissimo e la conosco molto bene che lei è anche un uomo di mondo, che legge i giornali e che sicuramente si sarà confrontato in questi mesi, perché la CNA ce l'ha detto, con le associazioni di categoria che rappresentano la piccola e la media impresa. L'evidenza statistica è una cosa, la realtà ci racconta tutt'altro. Come se lo spiega? Allora diciamo che innanzitutto l'evidenza statistica è una sintesi della realtà, perché se no non ci baseremo tutti quanti sulle statistiche. Mi chiedono questo più 6%, però, da che cosa sia stato determinato, certo, chi finanzia la banca allora? Certo, il tema vero è, io considero che in una fase in cui, questo è una delle informazioni che stiamo anche condividendo con il mondo delle imprese, le prospettive economiche complessive sono tutte viste a ribasso, in particolare ogni giorno abbiamo delle indicazioni che rivedono in termini negativi le previsioni o i valori indicati in precedenza, abbiamo che c'è un grado di rischiosità complessiva nel sistema che sta crescendo in misura significativa. Quindi, dato che la banca si deve attenere innanzitutto al principio della sana e prudente gestione come principio basilare. Patrimonio e vigilanza prima di tutto, sì. E dico che, questo tema della sana e prudente gestione è ciò che ha salvato le banche italiane rispetto alle altre banche internazionali che in questa fase sono state in corso di nazionalizzazione, perché non avevano seguito. E noi ci ricordiamo tutti i suggerimenti che da più parti negli anni scorsi erano stati rivolti al settore bancario proprio per non seguire questo principio di accettare maggior rischio, ma accettare maggior rischio significa ovviamente accettare una stabilità del sistema sicuramente inferiore. In questo momento il rischio che è incorporato nel sistema mondiale, ma anche nel sistema Italia, è in forte crescita, quindi sicuramente alcune posizioni marginali possono essere oggetto di particolare attenzione e di selettività nell'ambito della banca, perché la banca come funzione principale ha quella dell'allocazione del credito in modo corretto, perché questo che non dobbiamo sicuramente dimenticarci è che la banca non gestisce propri soldi, ma gestisce soldi di altri soggetti, i miei, i suoi, di quelli che quello sono senz'altro depositanti sul settore bancario. È che sul termine marginale mi sento di non essere completamente d'accordo, se non altro per le denunce che continuano anche ad arrivarci. Poi bisogna vedere anche se tutta la marginalità si rivolge ad una radio per denunciare appunto quanto accade. Però naturalmente prendiamo atto dei suoi dati, dottor Toriero, e adesso la faccio anche conversare un po' con alcuni dei nostri ascoltatori. Ho anche una testimonianza registrata di un imprenditore che ci aveva scritto una lettera molto bella, lo abbiamo tra l'altro anche raggiunto all'estero. Prima però un paio di ascoltatori in attesa, e Alessandro da Modena che aspettava da un po'. Alessandro, sì, buongiorno. Ma guardi, io stavo ascoltando e pare di vivere veramente in un'altra dimensione, cioè siamo in un'altra fase storica, cioè non so, i dati che analizzano di quando sono, no? Perché cioè, noi vediamo e sentiamo da tutti i nostri clienti e fornitori la medesima situazione. Cioè, in che settore lavora Alessandro? Un settore meccanico a Modena. Sì. Quindi, insomma, cioè, quello che vediamo è che con noi le banche per 1000 euro di, o 2000 euro di fuorifido ci telefonano, no? Nonostante abbiamo rapporti da 35 anni o 40, no? Perché questa è una ditta che esiste da metà degli anni 60, per cui insomma, no? 40 anni di attività onorata, sempre pagando tutti, però la situazione sarebbe ridicola se non fosse così devastante. Certo, no? Quindi Alessandro, per farci, io le faccio la stessa domanda che ho fatto prima anche l'ascoltatore di Padova, in che modo le stanno dicendo no adesso in banca? I 1000 euro di fuorifido, i 2000 euro di fuorifido. Quindi cioè, questo che un po' la infastidisce anche, certo. Quando rientri, ha capito? Cioè quando rientri, cioè, voglio dire, noi non siamo una grande azienda, siamo sotto il milione di euro di fatturato, però voglio dire Però questa è il cuore pulsante della nostra economia, Alessandro, per cui viva Dio che ci siano le piccole e medie imprese, che sono proprio il modello produttivo tipico del nostro paese e che sicuramente di cui dobbiamo andare fieri e di cui dobbiamo continuare a garantire l'operatività. Alessandro, ci metto insieme anche Mauro da Bari, poi torniamo anche al nostro interlocutore della CNA, Claudio Giovine. Mauro. Sì. Ci dica. Buongiorno, io sono un consulente in attività di impresa. Li abbiamo presi dal nord, dal centro e dal sud per appunto sì, proprio testimoniare come sia una crisi assolutamente democratica. Ecco, è vero, questa crisi non è solo esclusivamente che riguarda solo esclusivamente le aziende che vogliono avere i finanziamenti per ristrutturare il proprio debito, ma anche i nuovi progetti, anche le nuove iniziative industriali. Non vengono assolutamente prese in considerazione. Quindi perché il dottor Torriero diceva non c'è domanda, quindi come no, a dire non c'è stimolo, non c'è creatività. Ecco. Assolutamente, io non riesco a finanziare le ricerche per le aziende oggi, che ci hanno sempre detto che ci sono soldi. Ripeto, io faccio parte anche di un grosso Cofido, di un Cofido a livello nazionale, sono responsabile di questo Cofido, non riusciamo neanche a dare le garanzie. Oggi non si riesce assolutamente a lavorare, c'è una categoria che è la mia, che è in forte crisi, ma parlo di progetti validi, progetti di aziende che hanno un rating abbastanza buono. Oggi noi non riusciamo a trovare anche la possibilità di linee autoliquidanti per questa azienda. Sembra assurdo, ma è questo che sta avvenendo qua da noi. Mauro, io la ringrazio molto anche per la sua testimonianza. Allora, la stretta del credito e i danni che questa sta provocando nelle attività della piccola e della media impresa italiana, tra i piccoli imprenditori, tra gli artigiani. Prima di Natale, l'ingegner Francesco Mazzola, un imprenditore siciliano dell'Etna Valley, nostro ascoltatore, aveva scritto alla redazione di Radio 24 proprio per lamentare e denunciare la difficile situazione del credito alle imprese, in particolar modo alla sua. Sentite che cosa ci aveva raccontato, che cosa ci ha raccontato, perché lo abbiamo raggiunto proprio ieri pomeriggio. Noi ci occupiamo di telecomunicazioni e software per la sanità digitale. Noi siamo partner di grossissimi vendor a livello internazionale, vengono a trovarci, dicono ma se vi passiamo, vi aiutiamo con questo business. Dico, guardi, io non ho la capacità di poterlo finanziare, perché io posso arrivare con le mie forze fino a un certo livello, ma finanziare un business, siamo una piccola azienda, finanziare un business di 700-800, un milione di euro non è al di sopra delle nostre, non è fattibile, perché poi il mio fornitore vuole essere pagato 30 o 60 giorni e io, la mia amministrazione pubblica, il mio cliente pubblico mi paga dopo i collaudi, a 60 o 90 giorni dopo il collaudo, quindi io non ho capacità di finanziarti per 120 giorni a questi livelli. Quindi dice, ma a questo punto perdiamo il business, ma che cosa ci posso fare? Io ho contattato tutte le banche più importanti, quelle da cui noi siamo tra l'altro anche clienti da diversi anni, con diciamo posizioni abbastanza diciamo cristalline direi, eppure non c'è cosa fare. Noi lavoravamo anche molto bene con una finanziaria di una grossa struttura. In questo momento quasi tutte le finanziarie con cui lavoravamo, le banche stesse, non stanno erogando finanziamenti a nessuno e di nessun tipo. Tenga presente che noi lavoriamo con clienti di altissimo standing, quindi non ci sarebbero teoricamente nessuna problematica problematica, diciamo, anticipare. Solo in questo momento le banche proprio candidamente dicono: ma guardate, noi non ci fidiamo neanche fra di noi, quindi noi i soldi in questo momento non ve ne possiamo dare, non le diamo, eccetera eccetera, insomma fate un po' voi da soli, questo è il punto. E chiaramente questo è un limite, perché chiaramente lo sviluppo di un'azienda passa anche attraverso il credito per certi versi. Passa soprattutto attraverso il credito, mi sento di dire. Questo era l'ingegner Francesco Mazzola, un imprenditore catanese che ha molto credito sui mercati internazionali ma pochissimo credito in casa sua. Questo insomma è un suggerimento che mi ha dato la mia collaboratrice Valeria Coffaro, che ieri ha raggiunto questo imprenditore. Quindi non parliamo di un piccolo, parliamo già di una media dimensione molto interessante, che forse potrebbe avere un miglior rapporto anche con chi eroga credito, ma non ci riesce neanche lui. E un problema suo molto importante è quello di lavorare per commesse anche con la pubblica amministrazione, che a sua volta non lo paga, e quindi questo gatto che si morde la coda amplifica i suoi danni. E allora, prima di sentire Marco da Torino, che ha una testimonianza che mi sento di dire già toccante, vorrei sentire il nostro interlocutore della CNA, Claudio Giovine. Lo abbiamo accantonato per un po', abbiamo sentito quello che ci hanno raccontato le banche, il dottor Toriero appunto dell'ABI. Complessivamente il sistema cresce di circa il 6% nell'ultimo trimestre considerato. Secondo lei questi soldi dove vanno? A chi? Guardi, il problema è che effettivamente c'è un rallentamento rispetto ai periodi precedenti. È stato ricordato che non più di un anno fa gli impieghi crescevano a circa due cifre, 10-11%. Quindi la caduta è comunque sensibile e percepita chiaramente dalle imprese. Il problema è che però la distribuzione delle variazioni dei finanziamenti non è uguale in funzione della dimensione dei crediti. Esagero, i microcrediti, cioè quelli al di sotto dei 250.000 euro, potrebbero essere fermi, avere tassi di crescita tendenti a zero. I grandi crediti, quelli sopra i 5 milioni di euro, potrebbero crescere al 15%, quindi c'è un problema di composizione. Che... Esatto, che va. Poi chiaramente i volumi dei micro fanno fatica quindi a comporre poi i volumi dei grandi crediti. Quindi, come quindi dire, posso essere un po' anche polemica: il finanziamento di 1 miliardo di euro che il sistema bancario garantisce a Fiat in questo momento può far sbilanciare tutto il settore. Non lo so adesso se sono stato esagerato, diciamo, perché noi, ripeto, ragioniamo sempre in termini complessivi, mentre andando poi a analizzare i singoli comparti o dimensioni di impresa ci accorgiamo che ci sono settori industriali improduttivi che sono già in una fase di difficoltà di accesso al credito non da ieri, penso all'artigianato, penso anche all'industria, mentre c'è stata una fase in cui ancora il credito andava verso l'edilizia, che oggi marca invece una situazione di grande difficoltà. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che mi sento di dire però è questo: attenzione, è chiaro che la banca è un'impresa, che la banca deve necessariamente attenersi a una gestione oculata, attenta, e quindi valutare con attenzione la sana e prudente gestione. Questo è evidente, però c'è anche un problema: che oggi il rischio deve essere valutato non solo su quelli che sono gli elementi congiunturali, ma il rischio strutturale dell'impresa. Parlava prima l'imprenditore, non ricordo quale, che lui opera da più di 30 anni in rapporti con la banca e improvvisamente il meccanico, chiamiamolo così, di Modena. Sì, sì. C'è poi chiaramente c'è un rigidimento da parte della banca. Allora credo che ci sono casi più eclatanti in cui il rifiuto del credito rischia di creare una discontinuità nella vita dell'impresa. Allora il costo discontinuità è un valore che sul quale bisogna, cioè la continuità è un valore, il costo di discontinuità è un elemento sul quale credo la banca debba ragionare anche in termini proprio di interesse di riallocare le risorse rispetto a attività che potrebbero cessare a loro vita. Le faccio sentire... Dopo 30 anni per l'impresa, per la stessa banca rischia di essere un costo. Ce n'è una in procinto di cessare la sua attività, quella di Marco da Torino. Marco. Pronto? Benvenuto a Salvadanaio. Pronto, grazie. Meno male che avete fatto questa trasmissione proprio in un momento in cui stavo andando in banca. A fare? A chiedere un fido o un credito per acquistare dei mezzi da lavoro, essendo che la mia attività prevede che io posso andare a ritirare del materiale e ho 4 dipendenti, per cui sono molto piccolo, non ho certo, sono intorno ai 150.000 all'anno come fatturato medio. E quindi? Il discorso che mi hanno negato il credito. Ma era... Mi hanno negato il credito in 3 banche in una mattina. E quindi adesso Marco, lei che cosa farà? Sono obbligato a chiudere. Non posso temperare ai contratti, pertanto o chiudo oppure mi lascio a casa la gente e lavoro da solo usando un mezzo in affitto. Non ha nessuna alternativa in questo momento, Marco. Se non andare dagli usurai, no. No, adesso speriamo che non ci sia bisogno di ricorrere a questa pratica estrema. Marco, ringrazio anche lei per la sua testimonianza. In 30 secondi la faccio fare anche a Paolo da Ferrara, così poi magari concludiamo con Torriero e Giovine. Paolo, sì, ci dica. Security da Ferrara, azienda 5 persone sotto il milione di euro. E anche noi abbiamo avuto un problema, nonostante che l'azienda andava tutto sommato abbastanza bene fino a ottobre. Abbiamo avuto il problema di due istituti di credito che ci hanno dimezzato il salvo buon fine, senza un oggettivo motivo. Quindi non è aumentata la sua rischiosità, Paolo? Produce le stesse garanzie alla banca? Inalterato, anche il diciamo rating Basilea 2 non era ancora minato come lo è adesso, ovviamente, però senza nessun motivo il salvo buon fine è stato dimezzato. Le ricevute bancarie dei clienti venivano setacciate alla lente di ingrandimento e ci è stato richiesto anche delle pesanti garanzie a livello proprio personale. Paolo, io devo salutarla perché siamo in procinto di chiudere e volevo dare un ultimo giro di parola anche ai nostri ospiti di questa mattina. Dottor Torriero, lei mi conosce molto bene, sa benissimo che se io avessi avuto la possibilità di sentire la testimonianza di qualche imprenditore che ci poteva raccontare, in banca è andato tutto bene, a me non è cambiato niente, io continuo ad avere il credito che chiedo senza alcun problema, senza alcun aumento di oneri, lo sa che l'avrei mandato in onda volentieri. Allora, insomma, al di là, diciamo, delle statistiche di cui dobbiamo giustamente anche rendere conto, che idea si è fatto rispetto a tutto quello che abbiamo sentito fino a questo momento? Ma allora, scusi, poi eventualmente segnalerò qualche caso di positività, perché noi abbiamo fatto con Confindustria un tavolo di lavoro a livello territoriale e in alcuni casi, ma le riporto ciò che hanno detto direttamente molti imprenditori, che in questo momento la preoccupazione maggiore non è tanto connessa con il tema del finanziamento, ma soprattutto dalla carenza di domanda. Ma questo ci proviene direttamente dal territorio, dal mondo confindustriale. Ovviamente c'è anche un'attenzione al tema del finanziamento, ma la preoccupazione più ampia è proprio quella della carenza di domanda, perché per esempio uno dei radioascoltatori ci diceva lavora nell'ambito degli apparecchiature meccaniche, in questo momento hanno ridotto il fatturato tra aprile e dicembre 2008 del 17% della produzione, che è un crollo. Magari faremo una trasmissione anche su questo, allora cercheremo di intercettare quegli imprenditori che avrebbero voglia di fare domande e capire che garanzie devono portare adesso anche per essere accontentati. Detto questo, per concludere, una provocazione. La parola esatta è questo della garanzia, perché in questo momento noi abbiamo un crollo della fiducia in termini generalizzati in ambito mondiale, ma anche nel nostro paese, e quindi bisogna ricreare delle condizioni di fiducia, perché da questa crisi si esce solamente se riusciamo a trovare dei punti di contatto e di vicinanza tra i diversi operatori economici, le banche, le imprese, il governo. Quindi in questo momento noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci accresce la fiducia, e soprattutto lo strumento è quello della garanzia. La garanzia è stata utilizzata per stabilizzare il mercato interbancario, il mercato bancario, l'assicurazione dei depositi, tanti interventi sono stati fatti. In questo momento sicuramente bisogna attivare quegli strumenti di politica economica che possono creare le condizioni di agire soprattutto per la fascia marginale di clientela, le imprese che hanno una maggiore criticità. Un imprenditore mi dice che ha 150.000 euro di fatturato e 4 dipendenti, ovviamente non ha una situazione economica particolarmente equilibrata, quindi probabilmente esistono i confidi, esistono gli strumenti di garanzia pubblica. Questi strumenti di garanzia pubblica devono essere finanziati, devono essere rafforzati, perché questi strumenti devono funzionare pienamente, soprattutto nei periodi come quello attuale, che sono periodo di crisi. Dottor L'interesse Torriero, della banca è di finanziare, perché la banca... Quello è il suo mestiere tradizionale. Infatti, dottor Torriero, io devo salutarla perché voglio dare 20 secondi la parola anche a Claudio Giovine, intanto che si orchestra un'iniziativa generale di ampia o respiro come quella che Torriero suggeriva. Giovine, dovete affrontare però i problemi di chi tutti i giorni invece alla saracinesca della banca abbassata. In 30 secondi ce la facciamo a dare un suggerimento di massima a chi si trova in questo momento in questa situazione di difficoltà? Mi rendo conto che è impossibile, però come suggerite ai vostri associati di muoversi in questo momento? Un suggerimento è quello di arrivare in banca non sguarniti di informazioni, dell'assistenza di associazioni e confidi. perché bene o male alla stessa banca, oltre alla storia dell'impresa, può essere utile acquisire informazioni di natura storica, qualitativa sull'impresa da parte dell'associazione e arrivare assistite a una creazione con confidi. E chiudo, ricordo solo che tra gli strumenti che il governo sta mettendo in pista è proprio il rafforzamento della struttura dei confidi e della garanzia pubblica a supporto dell'erogazione dei finanziamenti. Allora, io devo salutarla. Sì. È strumento essenziale. Perfetto, la ringrazio molto. No, ma ci torniamo allora, magari seguiremo insieme a voi come stanno andando avanti questi processi. Intanto devo salutarvi, grazie a tutti, buona giornata domani.